vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. We're in the cuckoo, Gigi now. I love cooking in the kitchen with the you mama. We're in the cuckoo, Gigi now. I love cooking in the kitchen with the you mama. E inauguriamo oggi il nostro appuntamento con la ricetta del medicuoco. In studio con me il dottor Stefano Arzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, medicuoco, quasi cuoco. Mi piace, eh? Ci suggerirà una ricetta semplice da preparare, buona da mangiare, che aggiunge un po' salute anche alla nostra dieta. Parleremo sempre comunque di salute mangiando. Ecco, ma l'idea di partire dalla ricetta ci collega proprio nell'abitudine pratica a prenderci cura di noi mentre prepariamo quello che mangiamo, che è una cosa importantissima. Spesso mangiamo per così quasi come una specie di pilota automatico, invece mangiare in maniera consapevole è la cosa più importante, e queste sono tutte piccole occasioni per poterlo fare. E allora io vi invito a iscrivervi a questa sorta di scuola di cucina del medicuoco, perché se è vero che l'appetito viene mangiando, la salute viene cucinando. Voilà, no, dai, ma cosa me mangiato l'ha stamattina? Su un piatto d'argento. Iniziamo. Tornate in cucina, perché allora, tornare in cucina è necessario per guadagnare salute. Da che cosa iniziamo oggi? Noi siamo pronti per prendere gli appunti. Io comincerei con una bella zuppetta fredda di lenticchie e zenzero. C'è chi dice che è afrodisiaca, ma non ve lo garantisco. Provate e ci saprete dire. L'estate facilita. Partiamo da come farla e poi dal come farla ci diremo qualcosa, faremo due chiacchiere su quelle che possono essere poi i bisogni di salute che questa ricetta, a cui questa ricetta può rispondere. Noi prendiamo delle lenticchie, vi consiglio lenticchie piccole, perché piccole significa cottura più semplice e significa, oltre che cottura più semplice, una consistenza che risulta più gradevole al palato. Cioè un pochino più croccantino. C'è una croccantezza, ma contemporaneamente c'è anche una sensazione di gusto che è più concentrato. Quindi in generale un classico dell'Italia, quindi dalla Castelluccio, tutte le zone dell'Umbria vanno tutte benissimo. Io consiglio sempre un piccolo ammollo. Perché? Perché il legume ammollato risulta un pochino più semplice nella cottura e meno facilmente comporta che ci sia sempre un cuore che rimanga un po' duro. Ecco, ricordatevi sempre, lavatele, perché comunque un sassolino, un po' di polvere ci possono essere sempre, ma anche non mangiate mai i legumi al dente, perché tanto che vi facciamo una testa così sulla cottura al dente degli spaghetti, della pasta, il legume al dente può essere difficile per la vostra pancia, perché vi fa come minimo la pancia gonfia, e poi contiene i cosiddetti antinutrienti, che sono delle sostanze che limitano l'assorbimento di ferro, di calcio, di zinco, quindi di minerali importanti. Quindi abbiamo le nostre lenticchie piccole, le abbiamo messe a bagno, non serve tanto, basta un'oretta. A questo punto, dopo che le scoliamo, facciamo un soffritto esattamente come se dovessimo fare un soffritto per un risotto, per un arrosto, un soffritto bello saporito. Quindi sedano, carota, cipolla, piuttosto che ci mettiamo un'erba aromatica, la foglia di salvia, l'alloro. Io l'alloro lo consiglio ovunque. Sempre, a me l'alloro proprio me lo metto anche in testa quando mi laureo. Quindi e poi con la lenticchia, l'alloro, perfetto. Sì. Sì, aggiunge gusto, ma soprattutto da quel fondo di aromaticità e dolcezza che proprio ci sta bene. Insaporiamo tutto. Se vogliamo ancora dare un pochino più di spinta, facciamo un mazzetto odoroso, che vuol dire mettiamo dentro una piccola garza dell'aglio, della scorza di limone, dei grani di pepe, cioè qualcosa che dà ancora più una spinta aromatica. Così non si perdono. Non si perdono, e poi soprattutto alcune erbe aromatiche fuori dal mazzetto odoroso, se sono poi cotte a lungo, cominciano a diventare un po' amare. Invece in questo modo prendiamo un po' così l'anima dell'aroma senza l'amaro. Quindi iniziamo a fare soffriggere tutto con calma. A questo punto buttiamo le lenticchie esattamente come se buttassimo un risotto, quindi iniziamo a risottarle, iniziamo proprio a ricoprirle di profumo e di sapore. mettiamo uno zenzero fatto fine, perché lo zenzero sotto i denti non si deve sentire, quindi pensate dei cubettini di un paio di millimetri, cosiddetta brunoise, cioè proprio fine, piuttosto un trito. Buttiamo dentro tutto, giriamo, ricopriamo bene, facciamo insaporire bene, copriamo o con acqua bollente o con brodo vegetale. Lo facciamo andare per non tantissimo, il tempo della lenticchia può essere 20 minuti, una mezz'oretta. Decidiamo noi quando è il momento giusto per mangiarle, ma ricordiamoci sempre, dicevamo prima, mai troppo al dente. A questo punto, cosa manca nella cucina vegetale? Manca il gusto umami. E il gusto umami non può mancare nella cucina vegetale, perché il gusto umami è quello che fa dire ai nostri cervelli: sto mangiando qualcosa di saporito, quindi qualcosa che mi piace, che voglia di mangiare. Quindi sia alla pancia che al cervello in alto. Assolutamente al cervello. Allora, gusto umami, per capirci, è il gusto del sugo dell'arrosto, del prosciutto crudo stagionato, del parmigiano stagionato, quindi molto saporito. Deciso, che ci fa dire: ah, sto mangiando qualcosa che ha sapore, che ha sostanza. Nei prodotti vegetali, per la loro composizione proprio chimica, non c'è gusto umami. Allora noi cosa facciamo? Ce lo mettiamo in maniera indiretta, non c'è bisogno del classico osso del prosciutto per capirci che era un classico umami della cucina povera. Ci possiamo mettere, io consiglio questo intruglietto che è un vero concentrato di umami. Ci mettiamo 2-3 funghi secchi, fungo secco e umami. Ci mettiamo un po' di concentrato di pomodoro, concentrato di pomodoro è ugualmente umami. Ci mettiamo un pochino di acqua per stemperare, e ci mettiamo o un cucchiaio di salsa di soia o un cucchiaino di pasta di miso, che è una pasta che si usa nella cucina orientale per fare i brodi. Stemperiamo bene il tutto a freddo, perché sennò si coagulano. E quando ormai praticamente la lenticchia è pronta, ormai l'abbiamo assaggiata, ci piace, bella al dente, a questo punto buttiamo questo nostro brodettino dentro nella lenticchia, mescoliamo bene in modo che questo umami vada ad arricchire e a rinforzare l'aroma che ci verrà dall'alloro, dalla cipolla e da tutti gli aromi che abbiamo già messo. A questo punto sedetevi, sediamoci, ecco. Aspettiamo la zuppa di lenticchie. Va posata, come il minestrone. Assolutamente. Imparate ad aspettare con le zuppe, con i minestroni, perché più aspettate e più è buona. Si possono usare anche le lenticchie in scatola? Certamente sì. Ecco, avvertenza. Anche questo, senza nessun problema, diamo anche questo messaggio. Tutti abbiamo una vita che può essere non facile. Il legume in scatola, tra le cose preparate in scatola, è una delle cose sicuramente più fattibili e che conserva di più i nutrienti. Quindi in questo caso tutto quello che vi abbiamo detto lo fate, ma a questo punto la cottura della lenticchia non ha bisogno di avere l'aggiunta di acqua, perché sono già cotte. Ma solo insaporita più il nostro gusto umami. Esatto, in quel caso se usiamo una lenticchia in scatola l'unica accortezza è facciamo andare un po' di più il soffritto con lo zenzero, la cipolla eccetera, in modo che quando poi arriva la lenticchia che è già cotta è già abbastanza morbido, se no rischiamo poi di avere il pezzetto di carote di cipolla. Allora, un po' duretto. Da questo piatto squisito noi che cosa impariamo? Prima cosa, importantissima, la quantità di fibre deve essere ad oggi considerata a tutti gli effetti un macronutriente, quindi non potete più ragionare in termini di carboidrati, proteine e grassi. Carboidrati, proteine e grassi e fibra. Ce ne vuole una, almeno dicono le linee guida, 30 grammi, io vi consiglio anche 40 grammi al giorno, e non è facile se non si mangiano legumi, se non si mangiano verdure e cose integrali. Quindi fondamentale, grande quantità di fibra. La questione dell'afrodisiaco. Eccola lì, la volevo. C'è un motivo scientifico per poterlo dire? Sicuramente sì, perché tutta questa grandissima ricchezza dei legumi, delle verdure, delle erbe aromatiche che abbiamo messo, di antiossidanti e di fibre, fa sì che i nostri batteri intestinali ricevano un effetto cosiddetto prebiotico, cioè mangiano le popolazioni amiche, le fibre di scarto di questo tipo di prodotto. E a questo punto cosa succede? Che è la cosa più importante. Il nostro sistema circolatorio macro e micro circolatorio, quindi arterie grandi, arterie piccole. Dal cuore ai piedi, diciamo. Perfetto. Così. Testa ai piedi. Bravo, dalla testa, perché vogliamo anche, naturalmente, c'è anche qualcosa di testa. Esatto. Anzi. Anche la testa deve essere bella, fluida e assolutamente intensa nei sentimenti, deve arrivare il sangue anche lì. Però ricordiamoci che, come ci insegnano gli urologi, se nelle parti cosiddette, tra virgolette, basse, il sangue arriva poco, magari arriva poco anche alle nostre coronarie, e quindi insomma ci vuole, facciamo arrivare sangue dappertutto, un po' di tutto, di quel che ci vuole. Tra l'altro, tra 9 mesi, no, dopo questa zuppetta, se tra 9 mesi nascesse un bambino, i nomi li avete già pronti, o Stefano o Nicoletta. Perfetto. E noi veniamo. Di buon auspicio. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. E qui siamo, insomma, l'estate è sempre più estate, quindi ci vuole qualcosa di molto fresco, ma attenzione, ugualmente, come diceva poco fa, di molto saporito, di molto piacevole. Quindi ci faremo una bella insalata fredda di pasta con pomodoro macerato, che è un modo molto semplice che vedremo per poter estrarre proprio il meglio del gusto, proprio dell'anima del pomodoro. Cosa facciamo? Vabbè, l'insalata di pasta vuol dire di solito un formato di pasta corta, ma possiamo scegliere il formato che ci piace. Qual è il trucco dell'insalata fredda di pasta? Che, essendo comunque una pasta fredda, non è necessario mangiarla integrale per poter avere un buon impatto glicemico, perché anche una pasta bianca cotta bene al dente va benissimo. Quindi, cottura della pasta, un filino indietro, diciamo un minuto o due indietro, un bel colpo di acqua fredda appena la scoliamo, così fermiamo la cottura, mettiamo ma giusto un filino d'olio per non farla attaccare e la lasciamo da parte. Io la stendo. Ah, ma questa è alta cucina. È però. Questo, vedi che tocchettino da maestro. Stendere in placca, sì, è il modo più sicuro per raffreddarla senza, e questa è la genialata, senza fare perdere sapore, perché sciacquando un pochino di sapore si perde. E quindi... Vedi? Tanto di cappello allo stendere in placca. Se avete una bella placca, stendete, che il sapore è sicuramente migliore. Perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pa-pa-pa-pa, al pomodoro, viva la pa-pa-pa-pa. Cosa facciamo a questo punto? Ci dedichiamo a dare e concentrare tutto il sapore possibile in questo sughettino freddo e soprattutto a crudo, perché noi non cuoceremo il pomodoro. Prendiamo dei bei pomodori, voi sapete che la materia prima in questo caso fa quasi tutto del vostro piatto, e quindi magari mangiateli una volta meno, ma sceglieteli belli, maturi, giusti, saporiti. Spesso i pomodori, purtroppo, se sono coltivati in maniera intensiva, sanno quasi solo di acqua, che non è che ci faccia male, ma perde un peccato, po' di sapore, è un peccato. Anche perché, insomma, questa è la stagione. È proprio l'estate, proprio pomodoro, diciamo, pianta raffreddante e quindi rinfrescante per eccellenza, e quindi è il momento di usarlo. Prendiamo i nostri pomodori, gli facciamo un micro taglio sul fondo, quindi gli facciamo tipo una crocettina, ma proprio un paio di millimetri, li buttiamo in acqua bollente per 30 secondi, cioè proprio un attimo. Proprio un tuffo veloce. Tac, prendiamo, mi raccomando, metteteli nell'acqua bollente con un mestolo o con una schiumarola. Se li buttate, quasi sempre vi scottate la mano, che non è che ci uccide, però non è piacevole. In questo caso, mi raccomando, miele a portata di mano. Questa non la sapevo, un po' di miele sulla scottatura. Sì, non fa venire la bolla, si sente subito un po' male, ma immediatamente, come per magia, bella la bruciatura, la fiacchetta non viene, insomma. Me la segno. Però in effetti il glucosio, di cui è ricco il miele, ha un effetto proprio per le ferite. Ecco, Anche i soldati romani lo usavano per le ferite di guerra, proprio per questo effetto. Io lo tengo sempre lì, il barattolino di miele per la scottatura con la padella, la griglia, è un attimo, il vapore. Sì, sì, anche quando si toglie che arriva il getto di vapore. Ok, allora quindi cerchiamo di non bruciarci, ma nel caso abbiamo il miele. Perfetto, quindi a questo punto un tuffettino, dicevamo, veloce. Andiamo subito a buttarli in acqua fredda. Non state a impazzire se non avete il ghiaccio, sarebbe meglio acqua e ghiaccio, ma se avete anche una bacinella di acqua fredda, anche lì un attimo, quel minuto per permettere che il passaggio da caldo a freddo faccia un po' sfogliare la buccia, quindi vedrete che toglierete la buccia con grandissima facilità. A questo punto li tagliate in quattro. Scegliete voi, idealmente per avere la massima dolcezza e il massimo sapore sarebbe da togliere l'acquetta e da togliere la parte interna con i semi, sì, che chiaramente ha poco sapore. Però se avete caldo e avete voglia di rinfrescarvi non vi fa assolutamente male. Comunque diciamo, idealmente tagliamo in quattro, svuotiamo e teniamo quelli che a questo punto sono i nostri petali di pomodoro, che è la parte più dolce e più ricca di gusto. Lei è anche un po' poeta, medico, poeta. Il petalo, il petalo del pomodoro è come il petalo della rosa. La tradita. Il petalo della rosa, come dire, anche questo è amore, diciamo così. No, assolutamente. Quindi cosa facciamo con i nostri petali? Li facciamo a cubettini e... questi cubettini li mettiamo a macerare in una ciotola, in una tazza, dove ci avremo messo quello che ci piace. La base che io consiglio sempre è olio extravergine d'oliva, basilico a pezzetti e un aglio schiacciato con la mano piuttosto che col dorso del coltello. Lo lasciamo tutto insieme il tempo che ci piace. Più noi vogliamo un olio che a questo punto si arricchisca di gusto, più dobbiamo lasciarlo tempo. Al limite anche tutta la notte in frigorifero. Ecco, se ci infatti va. Questo volevo chiedere, la temperatura ambiente o in frigorifero? Meglio in frigorifero. A questo punto quindi abbiamo finito. Quindi io posso prepararlo anche la sera prima, lo lascio l'ideale, in frigorifero. Sì, ma anche volendo d'estate, tenendolo in frigo anche per 2-3 pasti, perché poi se ci si mette a lavorare coi pomodori magari è un peccato far bollire l'acqua per 2 pomodori, lo facciamo per 3-4 pasti, poi in frigorifero dura tantissimo, quindi almeno tutta la settimana. A questo punto abbiamo il nostro sughetto che ha rinforzato la dolcezza e ha rinforzato tutti quelli che sono i sapori umami, perché anche il pomodoro ha un po' di un gusto umami, quello che citiamo come gusto saporito. Ci aggiungiamo un po' di sale, decidiamo noi se mettere un sale così com'è o se mettere un sale in maniera indiretta, che potrebbe essere metterci, non so, un pochino di salsa di soia o qualsiasi condimento salato. A questo punto mettiamo insieme la pasta che abbiamo fatto raffreddare con il nostro sugo, togliamo, se non siamo amanti dei gusti forti, togliamo ovviamente lo spicchio d'aglio, lasciamo tutto il resto. Ci sta che possiate avere un gusto che voglia un po' di rosmarino, di timo secco, i gusti delle erbe estive, aggiungiamoli senza alcun problema. Alcuni mettono anche un pochino di scorza di limone grattugiata. Ci io sta metto benissimo. Le scaglie di parmigiano. Scaglie parmigiano, umami su umami. Perfetto. Fantastico. A questo punto, anche con la pasta, come sempre vi diciamo per le zuppe, per tutte le ricette composte, facciamola riposare un pochettino. Se è in frigorifero, anche una mezz'oretta, se no comunque almeno qualche minuto, così si amalgamano bene i sapori e siamo pronti per gustarla. Che cosa impariamo da questa ricetta di importante? La cottura della pasta, lei ha detto al dente, non è un problema solo di gusto, ma anche in questo caso di salute e direi anche di amicizia nei confronti dei nostri batteri. Assolutamente, facciamoci amici i nostri batteri intestinali, perché diversamente da quello che si poteva pensare qualche anno fa, che servivano solo per farci andare in bagno bene, sappiamo che i nostri batteri intestinali regolano come minimo l'immunità, quindi le nostre difese, il nostro metabolismo, per cui se tendiamo tanto o poco a ingrassare c'entrano i nostri batteri intestinali, e soprattutto il nostro sistema nervoso. Se siamo più o meno suscettibili all'ansia, allo stress o alla depressione, anche qui c'entrano i nostri batteri. Quindi facciamoci gli amici dandogli da mangiare delle cose buone. Cosa sono i nutrienti principali dei batteri intestinali amici? Sono tre. Sono le fibre, sono i polifenoli, che sono comunque componenti di tutti i vegetali, e sono i cosiddetti amidi resistenti. Cosa sono gli amidi resistenti? Immaginiamo come se noi avessimo cotto la pasta, quindi la pasta ha cominciato ad avere una consistenza più gelatinosa. Sì. Raffreddandola, una parte dell'amido della pasta diventa, diciamo così, cristallizzato. Questa parte di amido cristallizzato noi come esseri umani non riusciamo a digerirla, ma che vuol dire? Mangiamo 80 grammi di pasta, 10 o 5 di questi grammi tali e quali vanno nel nostro colon perché non possiamo assimilare, e quindi è come se mangiassimo un po' meno pur avendola mangiata tutta. Quegli stessi 5 grammi fanno fare festa ai nostri batteri intestinali, che invece vanno pazzi per l'amido resistente, quindi se lo mangiano crescono, quindi pensate i lattobacilli, i bifidobatteri, tutte le popolazioni più utili per la nostra salute si riprendono, e questo ci comporta un miglioramento di tutte quelle che sono le funzioni della difesa e dell'infiammazione. Pranzo, cena? Quando ci piace. Così sfatiamo la bufala del mito. Noi carboidrati a cena. Sì, anche i carboidrati a cena, con queste avvertenze. Ricordiamo le tre indicazioni per portare a tavola non solo la ricetta di oggi del medicuoco, ma anche, perché no, una bella spaghettata agli olio e peperoncino, che serve per far festa anche con gli amici. Dottore Zegovesi? Quindi cottura al dente, integrale, ma se cottura al dente non necessario, sempre delle fibre insieme, quindi mettiamoci una verdura, un legume nello stesso pasto, sempre un filo d'olio, perché l'olio rallenta l'assorbimento degli zuccheri. Grazie. Arrivederci. Vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 6 per iniziare la giornata insieme.